Guten Abend, buonasera. Herzlich willkommen zu einer Begegnung mit der ehemaligen jüdischen Familie, die in Südtirol wohnte. Und ja, es ist für uns eine Freude und eine besondere Gelegenheit, diese Leute kennenzulernen und von ihnen Nachrichten, historische Nachrichten zu erfahren. Vor zwei Monaten haben wir ein Buch vorgestellt, Quando la Patria uccide, in italienischer Sprache übersetzt. Und es war für uns auch eine tiefe Erfahrung, weil die Zeitzeuginnen und Zeugen waren für uns auch sehr interessant zu erfahren, was sie erlebt haben in schwierigen Zeiten. Buonasera a tutti, la Biblioteca Provinciale Italiana Claudia Buzza organizza periodicamente in questa sede, presso il centro Trevi, delle manifestazioni per incontrare la popolazione, per far incontrare la popolazione con autori, autrici di libri, particolarmente importanti sono per noi quelli di storia locale. Due mesi fa abbiamo presentato un libro, Quando la Patria uccide, scritto in edicolo e edito dalla casa editrice Rezia. Abbiamo con noi i due autori, Sabine Maier e Joachim Dinakov di Merano. E questa è una seconda puntata legata alla pubblicazione di questo libro, ai testimoni che hanno reso possibile questo libro grazie alle ricerche dei due autori, e che sono persone che hanno vissuto in Autarchia, hanno un legame con il nostro territorio, ma in qualche modo l'hanno anche dovuto abbandonare. Ringrazio tantissimo anche le autorità che sono qui con noi. Abbiamo il presidente della giunta provinciale, dottor Arno Kopacz, benvenuto. Herzlich willkommen. Abbiamo il vicepresidente della giunta provinciale, dottor Cristian Tomasini, il sindaco di Poggiano, dottoressa Caramaschi. Abbiamo con noi anche la presidente della comunità greca di Merano, la signora Elisabetta Rossi, la dottoressa Rossi. Abbiamo con noi anche l'ex presidente della comunità greca di Merano, il dottor Steinhaus. E abbiamo con noi anche la delegazione dell'ANPI di Bolzano, il presidente Oscar Donatini, il presidente emerito l'onorevole Leonardo Bertoli, e con noi tantissimi ospiti, come potete vedere. E in primis abbiamo con noi anche lo scrittore che viene da Vienna apposta per questa serata, Doro Rabinovic. Ti ringrazio per tutti quanti voi, anche grazie per tanti mi giunse heute da sein und wir freuen uns, weil es ist wirklich eine sonderbare Gelegenheit für die Bibliothek und für die ganze Stadt, diese Veranstaltung zu verwirklichen. Danke. Abbiamo risolto anche da parte delle autorità e poi inizieremo una serata. Buonasera. Uno storico, un certo Edward Gibbon, ha definito la storia come la cronaca dei crimini, delle follie, delle tragedie e delle guerre. La definizione è vera, però a mio parere non è una definizione completa, perché la storia è anche la cronaca della lotta del genere umano contro le tragedie, contro i crimini, contro le follie, contro le guerre. Ed è anche la lotta contro il pregiudizio. Appunto, il pregiudizio. Stasera ascolteremo delle testimonianze e questo sostantivo pregiudizio sarà un po' il leitmotiv della serata. Che cosa è il pregiudizio? Le definizioni sono innumerevoli. Io preferisco quella data da un dizionario Battaglia, secondo cui il pregiudizio consiste in un'opinione precostituita, un giudizio preventivo o affrettato, priva di giustificazione razionale o emesso a prescindere da una conoscenza precisa dell'oggetto e tale da impedire valutazioni corrette. Io sono stato per tanti anni, oltre che studente, tanti anni fa anche insegnante, e mi ricordo che quando cominciavo a spiegare le leggi razziali, la prima domanda che ponevo ai miei studenti era la seguente: ma secondo voi negli anni 30 quanti ebrei c'erano nel nostro paese? e lì volavano letteralmente i numeri, da 500.000 a 1 milione, a 1,5 milioni. In realtà il censimento fatto all'epoca ci dice che erano circa 51.000, esattamente 46.656, con lo 0,0963 della popolazione. Ancora altre forme di pregiudizio: abbiamo festeggiato la nostra festa, quella della liberazione, però a microfoni aperti. Su una delle televisioni si sente un tizio che dice: il 25 aprile è la festa della liberazione degli ebrei. Ancora, la stampa pubblica qualche giorno fa un dialogo su una TV locale napoletana, dove una donna bionda fra i 40 e i 50 anni, la si direbbe la donna più nota del mondo, a una TV locale parla del Napoli e della Juventus e del centravanti Gonzalo Higuaín. Odio la Juve, devono fare la fine degli ebrei. Per arrivare poi all'antisemitismo che si mischia con le politiche di Israele, è sempre notizia di qualche giorno fa che in una cittadina, Düsseldorf, dove il 10 novembre del 38 ci fu la maledetta notte dei cristalli, orbene, un tribunale tedesco ha stabilito che l'attacco con bombe Molotov a una sinagoga appena fuori Düsseldorf non costituisce un atto di antisemitismo, ma una forma legittima di protesta politica contro Israele. Quindi alla domanda come combattere il pregiudizio, noi stasera non potremo dare evidentemente delle risposte definitive, però un primo approccio lo possiamo dare, forse non dando per scontato che si conoscano tutte le vicende storiche e soprattutto cercando di inserire nelle nostre menti, nelle nostre coscienze, il concetto di cultura. Stasera parleremo spesso del popolo del libro e proprio la lettura di libri, la lettura di questo testo su cui poi diremo qualcosa, ci consentirà forse di eliminare questi pregiudizi. Abbiamo degli ospiti e io darei prima la parola al presidente dell'ABI, Alfredo Radini, e voglio iniziare proprio con l'Associazione Nazionale dei Partigiani, perché è un'associazione che in una realtà difficile come Bolzano e come l'Alto Adige riesce a trasferire dei valori che poi hanno innervato la nostra Costituzione Repubblicana, i valori della libertà, della democrazia e dell'antifascismo. Prego, presidente. Grazie, la autorità, cittadini, è davvero una presenza che ci apre il cuore questa sera alla vostra, perché significa che c'è ancora una forte sensibilità, una forte attenzione culturale verso la storia e verso la tutela e la promozione della memoria. Sono situazioni che non devono mai essere date per scontato. Ringrazio in particolare l'Andes Hauptmann perché ha ricordato questo concetto proprio nel suo intervento del 25 aprile scorso. Mai dare per scontato che la libertà della democrazia di cui godiamo oggi e sia conquistata una volta per tutte. Sono valori che dobbiamo difendere tutti quanti, giorno dopo giorno, anche nella nostra più piccola azione quotidiana. Io non voglio portarvi via tempo perché ci sono tanti illustri ospiti, c'è anche cari amici che hanno realizzato questo volume molto importante, che ovviamente dovranno avere tutto lo spazio necessario. Io ringrazio in particolare la comunità ebraica di Milano, con la quale storicamente abbiamo un rapporto, oltre che di amicizia, ma anche di grande collaborazione proprio per la tutela e la promozione della memoria. Per parte mia e per parte nostra come antifascisti e separai, Voglio assolutamente assicurarvi, non ce n'è bisogno, ma voglio sottolinearlo pubblicamente, che la nostra presenza al fianco della comunità ebraica sarà quotidiana e permanente. Non ci sarà il minimo dubbio sulla continuità e sulla completa sintonia culturale rispetto al comune impegno per la tutela e la promozione di questi valori di democrazia e di libertà, che soprattutto per le giovani generazioni devono essere tutelati in ogni momento e in ogni luogo. Drammaticamente diventano attuali se pensiamo che solo poche settimane fa in una città metropolitana come Milano è stato possibile, nonostante tutti i divieti della prefettura e della polizia, un raduno di camicie nere, di ben 1000 camicie nere, per commemorare i repubblichini. Un segnale per la democrazia molto molto preoccupante e che ci dice a maggior ragione che non dobbiamo mai abbassare la guardia. Buon lavoro a tutti e buona serata. Grazie. Negli anni 90 il Keren Kayamet degli Israel volle piantare sulle passeggiate del Mungina un ulivo. Era allora presidente il dottor Dorvalder e il Keren Kayamet degli Israel, la più antica organizzazione ecologica nata nel 1901. A mio parere fu un segnale molto importante per la nostra provincia, perché probabilmente si cominciava a levare dietro le spalle quelle tracce di antisemitismo che pure sono presenti ed erano presenti in quell'epoca. Pensate che nel 1992, ottobre del 1992, il consigliere provinciale affermava che dovevamo ringraziare i tedeschi perché avevano ripristinato la lingua tedesca. Citato nei testi, quindi posso anche fare il nome del dottor Ball. L'immissione di quell'olivo ha significato tanto per la nostra terra. Ci siamo messi dietro le spalle formule di antisemitismo e piano piano è un lavoro che però sta producendo i suoi frutti. Il nuovo presidente della giunta provinciale, il dottor Compace, è impegnato su questo fronte. Io volentieri vi do la parola per portare un saluto. Grazie Presidente. Ecco, buonasera a tutti anche da parte mia, ich bin Bernd. Ich wollte heute unbedingt hier sein. Es ist für mich wichtig, dabei zu sein, gemeinsam mit den beiden Bürgermeistern, perché innanzitutto voglio ringraziare Lampi per portare anche in Milano, ma gli autori per la loro opera, a voi che avete organizzato questo evento, perché è un evento importante. L'atto del testimoniare, del raccontare, è un dovere, ce l'ha insegnato Primo Levi, non l'unico e non da ultimo, ma è stato anche lui, che è un dovere morale che abbiamo noi come generazioni, diciamo che sono posteri alla Shoah. Purtroppo l'antisemitismo in Tirolo ha una lunghissima tradizione, va detto anche questo, cioè non è soltanto quello che è radicato sull'odio razziale di tipo nazista, ma c'era anche precedentemente quello religioso. Ricordiamo l'Adam di Rim, famoso, e altre leggende che si sono costruite, cioè purtroppo questa lunghissima con Joseph. Pensare, c'era finalmente un po' di libertà, spazi anche con la rivoluzione del 48, però poi subito purtroppo è arrivato l'odio razziale anche qui da noi, e conosciamo o non conosciamo, purtroppo in tanti non ne conosciamo, le vicende che riguardano la nostra comunità ebraica del nostro territorio, Merano. Perciò bisogna raccontare, testimoniare, ricordare, insegnare. Es geht darum, Zeugnis abzulegen. Es ist für mich ganz wichtig, hier dabei zu sein. Es ist auch eine Tatsache, dass diese Vorurteile, Prejudizi, dass diese heute genauso vorhanden sind wie früher, nicht nur gegenüber der hebräischen Gemeinschaft, sondern in vielen, vielen Fällen, und dass es eben immer wieder diese Äußerungen gibt. Es wird dann behauptet, es würde Denkverbote gelten. Man wird doch wohl noch sagen dürfen. Nein, es gibt keine Denkverbote in der Demokratie, es gibt aber Denkgebote. Man muss zuerst wissen, wovon man spricht, man muss lernen, man muss erfahren und dann darf man gerne auch reden. Aber man sollte nachdenken, bevor man spricht. Und ich denke, es ist wichtig, dass uns, unsere Jugend, den Bürgerinnen und Bürgern des Landes erzählt wird, was geschehen ist, damit wir auch entsprechend uns da äußern können und diese Erfahrungen einfließen lassen können. Wir haben uns immer gern als Land der Opfer dargestellt. Es gab in unserem Land Opfer und Täter. Und wir sollten damit reif, in einer reifen Demokratie entsprechend umgehen. Deshalb danke ich noch einmal für diese Initiative. Danke, dass ich dabei sein kann. Und jetzt will ich zuhören und nicht mehr sprechen. Grazie a voi. La cultura, appunto, il ricordo, la testimonianza, e qual è il luogo deputato se non la scuola? Darei subito la parola al vicepresidente della Giunta Provinciale, che è stato consigliere. Grazie, buonasera a tutti, un rapidissimo saluto anche da parte mia, senza impedire il voto. Benvenuti a Nishon Putanave da Firestyle, benvenuti al 103. Sono contento che il nostro 103 vi ospiti una manifestazione, un incontro così importante. E ringrazio veramente l'Ambi anche la nostra biblioteca provinciale Claudia Augusta, perché dietro c'è un grande lavoro per organizzare un evento di questo tipo, non solo la presentazione del libro ma anche la presenza di testimoni. Credo che sia un bel impegno, quindi anche grazie a Valeria, grazie ad Orfeo, insomma un applauso, ma credo soprattutto a voi che ci lavorate tutti i giorni. Orfeo Donatini che il presidente Arcobaccia hanno richiamato le nuove generazioni giovani. Ebbene, guardate, noi facciamo questa serata, c'è un impegno forte sulla testimonianza, sapete, facciamo anche il Festival delle Resistenze, la biblioteca Claudio Augusta raccoglie anche il materiale attraverso l'ABI, quindi c'è un lavoro forte. Ma la nostra prima preoccupazione, come diceva il Presidente, è veramente alle nuove generazioni, è al trasmettere la consapevolezza, perché quando i testimoni diretti non ci sono più, è chiaro che è un problema. E su questo la provincia, la giunta provinciale è molto, molto impegnata in alcuni progetti sui giovani, bene che lo sappiate, per esempio il treno della memoria Zuzerin, in questi anni abbiamo fatto un percorso sulla consapevolezza, sulla conoscenza della Shoah, dell'Olocausto, della tragedia, della seconda guerra mondiale, ogni anno mirata su 150 ragazzi di tutti i gruppi linguistici insieme. In questi anni sono stati più di 700 ragazzi che hanno fatto questa esperienza. Noi continueremo sicuramente, siamo molto consapevoli di questo, e il nostro obiettivo è formare direttamente attraverso almeno un incontro, una visita, una preparata nei luoghi dello sterminio, tutti questi ragazzi, che siano Reuter, che siano sentinelle. Nella nostra società c'è bisogno, per preservare la democrazia e la libertà, uno scontato di sentinelle, di persone, e questo lavoro è uno degli impegni principali, penso di poterlo dire, non solo della giunta provinciale, ma di tutti e tre anche le culture italiane di Scalina insieme. Grazie a tutti, buona serata. Il sindaco a Bolzano è come essere presidente di della giunta provinciale dell'Alto Adige, è abbastanza complicato, non solo per alcuni aspetti amministrativi nel lavoro giorno per giorno, ma anche perché devi fare i conti con delle realtà che, per chi conosce il sindaco attuale e i sindaci precedenti, con delle realtà diverse, difficili e addirittura sconosciute. Bene, io chiedo a Renzo Caramaschi, il nostro sindaco, di poterci portare i suoi saluti. Grazie. Grazie. Salvo i saluti di informatica, ringrazio anche io tutti, però voglio dire che mi trovo certe volte in imbarazzo come sindaco. A fianco del Presidente mi trovo bene, con Donati mi trovo bene perché credo che siamo riusciti a dare una accelerata nello studio, nell'approfondimento di una storia che a mio avviso era stata rimossa. Non era più di 15 anni sono per funzionare in comune, c'era un vice sindaco che apparteneva al suo partito che festeggiava l'8 settembre perché entravano le truppe tedesche, non il 25 aprile. E con lui ho avuto degli scontri verbali chiaramente molto feroci su questo fatto, perché abbinare l'essere tedesco col nazismo e poi dall'altra parte gli italiani col fascismo che avevano votato le leggi razziali era veramente era un'oscenità contro la storia. Quindi mi sono reso conto, e questo è l'impegno che posso dire come sindaco di Bolzano, con Orfeo Donatini, con l'Ampi, con l'archivio storico, prenderemo e valorizzeremo tutti quelli che sono i piccoli elementi della storia, ma noi abbiamo un grande difetto: non dobbiamo più aver paura di approfondire i nostri errori, perché nel patto istituzionale del confronto italiano-tedesco, dove abbiamo costruito un bellissimo modello politico, funzionale, economico, operativo, organizzativo, ci siamo dimenticati poi di quello che abbiamo fatto. C'è stata una rimozione della storia, siamo riusciti a mettere una ciglia su ferite purulente. Adesso credo che sia giunto il momento doveroso di studiare senza paura, senza remore. Dobbiamo dirci in faccia quello che abbiamo fatto per le future generazioni, perché così si va avanti, così la democrazia non è solo antisemitismo, antisemitismo non antisemitismo, è democrazia non democrazia, è la tolleranza, l'intelligenza di capire l'altro. Questo è il nostro problema, e quindi ci siamo capiti tante cose, adesso dobbiamo, abbiamo un dovere etico e morale di approfondire senza paura questo tema, che noi almeno queste sono le intenzioni, approfondiremo. Quindi io ringrazio tutti i relatori e devo dire il discorso perché alle 7, siccome domani in consiglio comunale io ho 4 consiglieri di casa PAM dei repubblichini che vanno alle quelle manifestazioni di Milano, io ce l'ho in consiglio comunale, quindi ho una seduta di maggioranza questa sera alle 7 e poi domani in consiglio comunale, e la tentazione vedo di un contagio della destra verso situazioni di intolleranza che, per la semplicità di alcuni ordini del giorno, dove basta una virgola per dire no, saremo d'accordo, però c'è sempre un però di troppo, una virgola, per cui è il rifiuto, lo sento tutte le sere dei consigli comunali, non sui fatti operativi, ma sui fatti di programma etici, di quello che è la dignità di una città, c'è il rifiuto. Dobbiamo lavorare, lavorare, lavorare, non per fatto partitico, ma proprio per garantire un futuro ai nostri giorni. Buon lavoro. Devo dire ultimo, ma non meno importante, il sindaco di Milano. No, buonasera, mi è andata bene perché se sento che Caramaschi ha 4 di casa Pound, lui ce ne va bene. Abbiamo due della Lega che ogni tanto quei profughi si comportano bene. Esiste il suo fascismo, esiste schelungen, dieses DNA vom Rat, per chi si liberalizzate, su vernichten. Cioè questo è la DNA di Merano che era la liberalità, e poi i fascisti loro erano in grado di distruggere questo. Ma noi faremo di tutto che diventeremo di nuovo liberali, aperti. Adesso abbiamo una bellissima, quest'anno festeggiamo un giubileo, questo giubileo lo sfruttiamo per lavorare alla software. E noi abbiamo già cominciato, abbiamo fatto parecchi, un sacco di eventi lavorando sulla cultura, e diventeremo di nuovo liberali, che non dobbiamo, una cosa del genere non capirà mai più. Grazie. La serata prevede adesso l'intervento di Joachim Niederhofer, che presenterà Doron Rabinovich. Poi ci saranno le parleremo anche ovviamente del testo quando la pare uccide, e poi ci saranno le testimonianze. Prego Joachim. Grazie. Comunque all'inizio voglio ringraziare l'Amsterdam per il contributo che ci hanno dato, così potevamo, ci abbiamo fatto questa festa, questo momento. Grazie. Adesso tre parole con il buon Sultano Minovic, un sultano albanese storico, nato nel Tel Aviv nel 1961, trasferito nel 1964 a Vienna, vive ancora a Vienna. Nel 2013 è uscito il suo romanzo Altrove, in italiano, in tedesco, Andalos, 2010 da Shin Duron, era l'iniziatore del progetto teatrale Gli ultimi testimoni di Essen Zeugen, messo in scena dal Burgtheater a Vienna, al quale hanno conseguito testimoni della Shoah come Margot Feingold. Poi sì, nel 1986, quando è scoppiato lo scandalo sul presidente della Repubblica austriaca Kurt Waldheim, Doron Rabinovic critica la situazione politica dell'Austria, sì, dell'Austria, più o meno è tutto questo, grazie. Grazie, vielen Dank für die Möglichkeit hier zu reden. Erinnerung bedarf keiner Rechtfertigung. Wir entsinnen uns dessen, was den Opfern angetan wurde. Wir müssen dazu nicht einmal gezwungen werden. Was geschah, ist mir allzu gut bekannt. Wer nicht daran denken will, weiß ebenso davon, wie jene, die nachts von den Verbrechen träumen oder wie diejenigen, die schlaflos liegen, weil sie schon die Wiederkehr dessen fürchten, was einst den Hass gegen die Andersartigen schürte. Was nicht erinnert wird, ist längst nicht vergessen. Worüber in einer Gesellschaft nicht geredet werden darf, ist sogar schon den Kindern klar, die noch nicht einmal verstanden haben, was hinter dem Schweigen steckt. Die Vertreibung, die Ausraubung und die Vernichtung von Juden sind niemandem entfallen, wie etwa irgendwelche Telefonnummern oder der Wortlaut eines klassischen Gedichts. Ich muss heute hier in Wurzeln ansprechen, was seit jeher und weiterhin das Unsägliche ist. Wir sind hier zusammengekommen, um dessen zu bedenken, was allzu gern vergessen gemacht wird. Solange manche die Verbrechen ausblenden wollen, ist das Unerhörte eben nicht überwunden. Die Massenmorde werden nicht der Schrecklichkeiten der Vergangenheit wegen verleugnet. Jene seelischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Mechanismen, die damals das Unrecht vorbereiteten und letztlich nach Auschwitz führten, wirken bis heute noch fort. Und diese Kontinuität verhindert die offene Auseinandersetzung mit dem Übel. Wer die Erinnerung an die eigene Vergangenheit auslöschen will, verliert unweigerlich an Geistesgegenwart. Die Massenvernichtung liegt nicht in ferner Unzeit. Der Kampf gegen den Narzissmus ist nicht der Trojanische Krieg. Ginge es nur um ein altes Epos, das mit uns nichts zu tun hätte, würden wir nicht mehr so heftig über Narzissmus und Faschismus streiten. Wir müssten nicht die Frage erörtern, welche Schuld Österreich an der Auslöschung von Juden und Roma trägt. Niemand würde sich über Ausstellungen empören, die darstellen, wie sehr die Wehrmacht in die Massaker verstrickt war. Die Debatte, ob ein Denkmal über Widerstandskämpfer errichtet werden darf oder eine Straße umbenannt werden muss, könnte kaum noch jemanden beschäftigen. Keiner hätte ein Problem damit, irgendwelche Ehrentafeln oder Denkmäler für Benito Mussolini einfach zu entfernen. Längst wäre das Porträt des Engelbert Dollfuss aus dem Hohen Haus am Wiener Ring, aus dem Parlament, das er einst auflösen ließ, beseitigt. Nein, die faschistische und nazistische Vergangenheit sind nicht eine abgeschlossene Geschichte wie die Schlacht vor Troja. Beschäftigt die öffentliche Debatte deshalb. Es gibt keine Kontroverse über die Frage, ob Achim oder Hektor blutgierigere Kämpfer war. Aber, werden jetzt manche zu Recht einwenden, ist denn das nationalsozialistische Reich und das Regime des Faschismus nicht längst besiegt? Feiern wir nicht die Niederlage der Wehrmacht? Ist es nicht gefährlich, so zu tun, als müssten wir noch einen Krieg gegen die Nazis gewinnen? Sollten wir, die wir in Frieden leben, nicht endlich Frieden geben, herrscht denn um uns nicht überall Demokratie und Rechtsstaat? Müssen wir nicht darauf bestehen, dass da ein Unterschied ist zwischen dem, was damals war und dem, was heute ist? Ganz anders als die Antifaschisten vor 1945 brauchen wir nicht zu fürchten, in Haft genommen zu werden, wenn wir gegen Unrecht und Rassismus demonstrieren. Wir dürfen unsere Meinung äußern und können die Regierung abwählen. Wer unterschlägt, dass wir Freiheit und Frieden genießen, beschönigt das Leid, unter dem die Opfer einst zu leiden haben. Wenn der Papst die Flüchtlingslager ohne Bedenken Konzentrationslager nennt, versucht er wohl unser Mitgefühl mit den heutigen Opfern von Kriegstraumata, von mörderischer Verfolgung und von Folter aufzurufen. Aber ist es nicht verständlich, wenn viele dann seine Wortwahl und Tadung, wenn viele dann seine Wortwahl tadeln, weil sie dann eine Relativierung der Shoah sehen? Die Zustände in vielen Flüchtlingslagern der Welt sind schrecklich. Menschen werden gegen ihren Willen dort zusammengepfercht. Sie sitzen fest, sie sitzen im eigenen Dreck, sie hungern. Aber die Nazis sprachen vom Konzentrationslager und von der Vernichtung zu schweigen. Sie redeten von Umsiedlung, aber sie meinten die direkte Deportation in den sofortigen Tod. Sie ließen die Juden für den Zugtransport zahlen. Sonderzüge bis vor die Gaskammer. Gruppentarif für alle. Nur Kinder unter 4 wurden gratis nach Auschwitz gebracht. Dasselbe Wort Konzentrationslager, das damals beschützen sollte, was den Opfern widerfuhr, wird heute missbraucht, als müsste das Schreckliche, unter dem die heute Verfolgung leiden, noch ausgeschmückt werden. Die Wörter werden zum Objekt der Beliebigkeit. Vom nuklearen und ökologischen Holocaust ist zuweilen die Rede. Hühner oder Bäume werden zu Opfern einer Vernichtung stilisiert. Das Leid der Ermordeten wird so ein weiteres Mal ausgedeutet. Aber erinnert uns nicht manches, was damals Menschen widerfuhr, an das, was seither wieder geschah? Sicher, die Shoah ist ein einzigartiges Verbrechen gewesen. Doch immer einmalig ist sie eben nicht. Es ist wichtig, zwischen Gleichsetzung und Vergleich zu unterscheiden. Das Gedenken an die Shoah wäre sinnlos, wenn so getan wird, als hätte diese Vergangenheit nichts mit uns zu tun. 1933 war noch nicht erkennbar, was 1945 geschehen sein sollte. Das Engagement gegen Rassismus, Rechtsextremismus und Neonazismus ist kein historischer Mummenschanz, kein Karneval, der mit der Gegenwart nichts zu tun hat. Wir werden der Erinnerung der Überlebenden nicht gerecht, wenn wir alles, was damals den Verfolgten widerfuhr, mit dem gleichsetzen, was wir heute erleben. Aber wir verraten ihr Vermächtnis auch, wenn wir so tun, als hätte das, was einst nach Auschwitz führte, mit dem, was bis heute gemacht wird, nichts mehr zu tun. Wir sind mit zwei Formen der Verwirrung konfrontiert. Die einen entdecken in jedem Übel Hitler und die anderen können nichts Böses erkennen, solange es Hitler höchstpersönlich nicht ähnelt. Hätten wir nur das Recht, gegen Hitler-Protest einzulegen, wären wir zur Untätigkeit und zur Untat zugleich verdammt. Wir könnten uns gegen nichts erheben, solange das Schlimmste nicht geschehen ist, doch wir hätten auch nichts mehr zu sagen, wenn es bereits gemacht wäre. Erinnerung bedarf keiner Rechtfertigung. Die nationalsozialistische Vergangenheit gebietet, den Anfängen zu wehren, ehe jegliches Aufbegehren einem Todesurteil gleichkommt. Das ist die Lehre, die tausende Überlebende immer wieder in den letzten Jahrzehnten vortreten. Wer Antisemitismus nur bekämpft, wenn die Vernichtung bereits geplant wird, verweigert sich der Erinnerung, die uns berichtet, wie der Hass gegen die Juden jahrhundertelang genährt und verbreitet wurde. Wenn unter Antisemitismus nichts anderes verstanden wird, als jener mörderische Rassenwahn, den Goebbels und Göring damit meinten, kann gegen den alltäglichen Judenhass, der noch nicht narzisstisch ist, gar nichts mehr gesagt werden. Aber der Kampf gegen den narzisstischen Antisemitismus kann nur gewonnen werden, wenn seine Wurzeln und Vorläufer aufgedeckt und überwunden sind. Besonders umstritten war diese Auseinandersetzung in Österreich. Mithin in jedem Land, das bekanntlich nach 1945 erklärte, nichts als das erste Opfer Hitlers gewesen zu sein. Die Juden waren dem Staat bei dieser Geschichtsauslegung im Weg. Als der jüdische Politiker Nachum Goldmann den österreichischen Kanzler Julius Raab aufsuchte, um Entschädigungen einzufordern, erklärte ihm der Staatsmann in Wien 1945, wir befinden uns in derselben Lage. Beide sind wir Opfer des Rassismus. Worauf Goldmann antwortete, richtig, Herr Bundeskanzler, ich bin ja auch endlich hergekommen, um Sie zu fragen, wie viel Ihnen das jüdische Volk zahlen soll. Die österreichische Geschichtslüge, nichts als das erste Opfer Hitlers gewesen zu sein, war vorerst eine teils nicht ganz falsche Parole gegen die Nazis gewesen. Der Widerstand gegen das Deutsche Reich bestand darauf, Österreich gehöre eben in Wirklichkeit nicht zum nationalsozialistischen Deutschland. Aber nach 1945 wurde aus dieser rebellischen Formel für die Unabhängigkeit von Österreich eine kollektive Unschuldsthese. Über die österreichischen Väter sollte nichts mehr gesagt werden. Die Geschichte wurde umgelogen. Die Opfer konnten sich nicht wehren. Sie waren vertrieben oder umgebracht worden. Die Täter und die Mitläufer haben im Leben zumeist überlebt. Um ihre Stimmen mussten nun alle Parteien buhlen. Die Ermordeten wurden überschüttet. In der Konfrontation zwischen Ost und West konnte sich Österreich der eigenen Verantwortung entziehen. Niemand zwang den alten Staat, sich der historischen Wahrheit zu stellen. Österreich wollte ein Land voll leerer Geschichte, doch ohne Vergangenheit sein. Die Lüge wurde lange nicht aufgedeckt. Ein ganzes Land übte sich im dreifachen Wittenberger der Selbstüberlistung. Als der Kalte Krieg jedoch zu Ende ging, musste die Republik die Frage nach der österreichischen Schuld an den nazistischen Verbrechen neu erörtern. Die Causa Waldheim war das erste Anzeichen für die Globalisierung der Erinnerung. Was damals geschah, wirkte weit über Österreich hinaus. In jenen Jahren wurde die Kollaboration innerhalb der niederländischen, der dänischen oder der französischen Gesellschaft, wurde der Umgang der Resistance mit jüdischen Mitstreitern, die Politik gegenüber Juden innerhalb verschiedener Fraktionen des deutschen Widerstands, wurde auch die Flüchtlingspolitik der Schweiz neu durchforscht. Auch in den ehemals kommunistischen Staaten wurde die Beteiligung an nazistischen Verbrechen beleuchtet. Wie lange dauerte es jedoch, bis das offizielle Südtirol von den antisemitischen Traditionen und von den nazistischen Verstrickungen offen redete? Das Unausgesprochene der einen Seite wurde hier durch das Unsagbare der anderen verdoppelt. Faschistische Täter wollten nach 1945 nur antinazistische Verfolgte gewesen sein und Nazis nichts als antifaschistische Opfer. Jeder schrieb von etwas anderem. Das Verstummen in der einen Sprache stieß auf jenes in der anderen. Nationalismus verstellte die gemeinsame Sicht auf die Verbrechen der Vergangenheit. Doch ebenso die Perspektive auf eine vereinte Zukunft ohne Hass. Die Erinnerung wurde nicht miteinander geteilt, sondern zerspalten. Es ist dieses Denken, das sich in den Worten des ehemaligen Landeshauptmanns Louis Nürnwalder widerspiegelte, als er 2003 meinte, die Südtiroler seien so wie die Juden Opfer des Nationalsozialismus und müssten deshalb den Juden gegenüber keine wie immer gearteten Demutsgesten zeigen. Noch im April 2009 wollte der Bozener Vizebürgermeister Oswald de Costa nicht mit den ehemaligen italienischen Partisanen gemeinsam an der offiziellen Festa della Liberazione teilnehmen. Er sagte, aus Südtiroler Sicht sei eher der 9. September 1943 der Tag der Befreiung gewesen, als die deutsche Wehrmacht einmarschiert sei. Herr Costa sagte, Zitat, die Faschisten haben uns verboten, Deutsch zu sprechen und unseren Namen italienisiert. Ab dem 9. September 1943 ist jedoch die deutsche Kultur zurückgekehrt. Diese Rückkehr der Kultur nach Südtirol bedeutete Barbarei und Mord für die Juden, für Sinti und Roma, für Wehrdienstverweigerer und politisch Andersdenkende. Ab dem 8. September 1943 begann die Hetzjagd des Südtiroler Ordnungsdienstes SOD und des SS-Sicherheitsdienstes auf die hier lebenden Juden. Darunter viele, die seit 1933 aus dem Deutschlandreich geflohen waren. Sie wurden verhaftet, ihre Wohnungen wurden geplündert, ihr Eigentum wurde geraubt. Die Juden wurden über das Lager Reichenau bei Innsbruck nach Auschwitz-Birkenau deportiert und ermordet. Erinnerung bedarf keiner Rechtfertigung. Wir schulden sie den Opfern. Aber genügt es, ihrer zu gedenken, um sicherzustellen, dass sich, was einmal schon geschah, nie mehr wiederholen? Das ist doch der eigentliche Grund, weshalb wir die Jahrestage begehen und warum wir heute hier zusammenkommen. Seit 1945 wird dieses nie wieder beschworen. Was nützen wir doch unsere Rituale der Erinnerung? Gewinnen in ganz Europa jene Gruppen an Kraft, die den Hass auf Andersartige und Außenseiter prägen? Sind das denn nicht jene Fraktionen, die eine Politik der Ressentiments und zugleich die Relativierung der Vergangenheit vorantreiben? Die setzen auf die nationalistischen Differenzen, die einst bereits diesen Kontinent in die Katastrophe stürzen. Ich will nicht den Teufel an die Wand malen. Ich möchte nicht die heutigen Hetzer mit den Mördern der Vergangenheit gleichsetzen. Die starken Männer, die heute gewählt werden, heißt es, seien letztlich nur Hetzer, deren Programme keinen Erfolg versprechen können. Aber selbst wenn sie scheitern, unterminieren sie die Grundfeste unserer Gesellschaft und sie bereiten den Weg für noch brutalere Scharfmacher vor. Wir wissen es aus der Geschichte. Die Schicht der Zivilisation ist hauchdünn. Das System mag lange unumstößlich scheinen, doch wenn es erst einmal ins Kippen kommt, dann ist da kein Halten mehr. Erinnerung bleibt ein Lippenbekenntnis, wenn daraus keine politische Entscheidung folgt, für die Erinnerung zu sein, bedeutet auch, sich darauf zu einigen, was endlich vergessen sein soll. Wer ein vereintes Europa will, darf nicht die alten Feindbilder und Ressentiments pflegen. Eine Erinnerung, die den Opfern gerecht sein will, schwelgt nicht wie manche alten Kameraden aus der SS von den völkischen Kämpfen auf den Schlachtfeldern im Westen und Osten. Die antinazistische Erinnerung trauert nicht der Niederlage der Wehrmacht nach und sie träumt nicht von der Vormacht einer Nation für die andere. Jede Malerei, die erst die Juden zu Flüchtlingen machte, endete in einem Europa, in dem unzählige Millionen in allen Ländern und aus allen Völkern ihr Zuhause verloren hatten. Sie wurden vertrieben, sie flohen von der Front, sie rannten ihr Leben, das mit der Verfolgung der Außenseiter begann, mündete letztlich in Verbrechen gegen die Menschlichkeit und in einer Schreckensherrschaft gegen die Mehrheit. Das vereinte Europa entstand als Antithese zum Massenmord und zum Krieg. Die Union gründet auf der Abkehr von Antisemitismus und völkischer Propaganda, sitzt ein Festland der Demokratie, des Friedens und des Wohlstands. Die Niederlage der Nazis ist unser aller Triumph. Sie war die Voraussetzung für ein neues Österreich, für ein demokratisches Deutschland, für ein freies Italien, für ein unabhängiges Frankreich und letztlich auch für ein Südtirol in Eintracht und Vielfalt jenseits des Zwiespalts. Im Mai 1945 wurde mit dem Nationalsozialismus auch der Faschismus gezwungen. Zwar waren Diktatur und Imperialismus dadurch noch lange nicht aus der Welt, doch die Ideologie der Herrenmenschen herrschte nicht mehr über den Kontinent. Der Glaube an das nackte Gesetz des Stärkeren, an die Ungleichheit der Menschen und an die Notwendigkeit der Vernichtung aller Lebensunwerten war gebrochen worden. Das war kein Sieg über das eine oder andere Volk, sondern die Überwindung des völkischen Schlechthin und seinen Namen der Menschenrechte. Das sogenannte Dritte Reich war auf dem Vormarsch, solange Polen, Belgien, Frankreich oder England als einzelne Staaten nur versuchten, das Deutsche Reich zu besiegen. Erst als der Krieg nicht mehr als nationaler Konflikt angesehen wurde, sondern als globaler Bürgerkrieg, konnte eine Koalition aus allen Völkern den gemeinsamen Kampf gegen die Nazis und die Faschisten aufnehmen. Hitler wurde nicht nur konventionell militärisch gezwungen. Der politische Erfolg gelang, weil er nicht bloß durch die regulären Armeen, sondern im solidarischen Einklang und im ideellen Zusammenhang mit dem italienischen, dem französischen, dem polnischen, dem österreichischen, dem deutschen, doch auch mit dem jüdischen Widerstand erfochten wurde. Die Überwindung des mörderischen Nationalismus sicherte nicht bloß den Sieg über das sogenannte Dritte Reich, sondern auch das Ende des Krieges. Der Aufstieg dieses mörderischen Nationalismus hatte die Herrketzer an die Macht gebracht und den Völkermord eingeleitet. Deshalb setzten die Politiker nach 1945 alles daran, den Rückfall durch ein neues und vereintes Europa zu verhindern. Die Erinnerung gemeinsam hochzuhalten, heißt, die Erfahrungen der Vergangenheit und die Schlussfolgerungen der unmittelbaren Nachkriegszeit achtlos abzutun. Es geht darum, auf eine Zukunft jenseits der geistigen Begrenztheit zu setzen. Südtirol zeigt, wie fruchtbar es sein kann, die völkische Hetze zu überwinden, um im Verbindenden eine gewaltfreie Zukunft zu suchen. Frieden ist die einzig gerechte Lösung. Die wichtigste Grenze ist jene zwischen Faschismus und Demokratie. In Österreich tat sich der freiheitliche Präsidentschaftskandidat Norbert Hofer schwer, den Sieg über Hitler endlich als Freudentag anzuerkennen. Zugleich sagt Hofer, er möchte die europäische Einigung über Südtirol umstoßen und Gebietsansprüche gegenüber Italien stellen. Hofers Politik beweist, der Kampf um die Erinnerung ist kein Ringen um das richtige Gedenkritual. Die Geschichte lehrt, wer nur von Blut und Boden schwärmt, dessen höchstes Ziel liegt unter der Erde. Und der träumt vom allgemeinen Grabestod und vom Leichenfeld. Dessen Grenze wird ein Stahlgrab. Dessen Heimat liegt an der Front. Erinnerung braucht keine Rechtfertigung. Der jüdische Widerstand gegen die Vernichtung kämpfte zumeist aller Aussichtslosigkeit zum Trotz. Er hoffte nicht, die Wehrmacht besiegen zu können. Er kämpfte um das Vermächtnis. Der Widerstand richtete sich an die Nachwelt, richtete sich an die kommenden Generationen, an uns. Von Anfang an wollte der Widerstand gegen die Nazis Teil der Erinnerung sein. Und die Erinnerung ist immer noch Teil des Widerstands gegen die Vernichtung. Die Auslöschung des Namens ist bei den Juden ein Fluch. Nicht gedacht soll keiner werden. So lautet die schlimmste Verwünschung. Der nationalsozialistische Massenmord machte aus diesem Satz Wirklichkeit. Die Ermordeten haben keinen Friedhof. Für die Toten kann es keine Rettung geben. Doch sie tot zu schweigen, heißt sie ein zweites Mal auszumerzen und zum Komplizen der Untat zu werden. Deshalb mühten und mühen sich Überlebende, die Erinnerung aufrechtzuerhalten, denn die Wahrheit ihres Lebens ist der Mord an den Millionen. Aber bald werden die Überlebenden das Gedenken an die narzisstischen Verbrechen nicht mehr mit uns begehen können. Sie werden nicht mehr da sein, wenn die Geschichtsleugner wieder unverfroren Auschwitz leugnen. Sie werden nicht gegen die Lügen antreten und sagen, was wollen wir mir für Märchen erzählen? Ich weiß, was dort geschah. Ich kann es beeilen. Ich war dort. Bald wird sich keiner mehr erheben können, um zu bezeugen, dass ihm und den Seinen wieder. Meine Mutter sagte vor 2 Jahren im Wiener Parlament, ehe sie ermordet wurden, forderten unsere Mithäftlinge, erzählt, was uns getan wurde. Vor 70 Jahren war ich ein gerettetes Kind. Später wurde ich eine Überlebende genannt. Jetzt gehöre ich zu den letzten Zeugen. Wir sind alt geworden. Bald werden wir nicht mehr sein. Deswegen gebe ich das Vermächtnis der Erinnerung an euch weiter. Seid von nun an Zeugen unserer Erinnerung. Ihr habt uns gehört, erzählt davon. Übernehmt unseren Kampf gegen das Lügen, gegen das Vergessen und für unsere Erinnerung. So sprach meine Mutter. Die Erinnerung der Überlebenden ist unersetzbar. Sie sprechen zu uns. Ihnen gilt es zuzuhören. Sie verlieren sich nie in historischen Betrachtungen, als ginge es ihnen um ein Geschichtsseminar. Sie reden von der Vergangenheit, aber sie reden in der Gegenwart und für das Gegenwärtige und gegen das Widerwärtige unserer Zeit, gegen die Wiedergänger und gegen die Wiedergeburt des einstigen Umgeheils. Sie erinnern sich jetzt an das, was war und wie sie erinnern, ist geprägt von dem, was ist. Es geht nicht darum, uns mit dem Gedenken an manchen Jahrestagen zu begnügen. Es gilt, an allen Tagen des Jahres dessen eingedenkt zu bleiben, was den Frieden und den Zusammenhalt unserer europäischen Zivilisation und der Menschenrechte sichert. Es kommt darauf an, den Gefahren entgegenzutreten, die uns in neuem Gewand begegnen. Das antisemitische Ressentiment gibt sich heute gern antizionistisch und tut so, als hätte es mit Rassismus nichts zu tun. Der Rassist entdeckt seine neue Liebe für die Juden und den Feminismus, wenn er so oder besser gegen die Muslime zu Felde ziehen kann. Der Dschihadist wiederum stellt sich als Opfer dar, um den Mord all jener zu rechtfertigen, die sich ihm nicht unterwerfen. Es braucht die demokratische und antinarzistische Erinnerung. Ohne sie können wir den unterschiedlichen Gefahren für die offene Gesellschaft in der Europäischen Union nicht begegnen. Solange nur ein einziger hier unser Leben zittern muss, weil er oder sie dieser oder jener Herkunft ist oder die eine oder andere Meinung vertritt, kann niemand selbstvergessen ruhig still sein. Wer will es den Neonazis und Rechtsextremen verdenken, wenn sie die Niederlage etwas beweinen? Ich gönne ihnen ihr Jammer. Ich sage, trauert ruhig. Ihr habt verloren. Euer Reich ist dahin. Und es ist gut so. Wir werden dafür sorgen, dass ihr das auch nicht vergesst. So ehren wir den Widerstand. So gedenken wir der Opfer. So feiert die Mehrheit unserer vielfältigen und multikulturellen Gesellschaft den Sieg über Nazismus und Faschismus. Danke für Ihre Geduld. Eckstein, Ilse Eckstein, Adalgise Ascoli, Isidor Schlaff, Anna Blums, Riccardo Luzzato, Alfred Berman, John Gitterman, Alfred Russo, Marvin Lehmann, Clemens Frenkel e altri, segnala Isabella Ferdigotti, sono soltanto alcuni degli ebrei residenti in Alto Adige che furono vittime della Shoah. Questa lunga lista con la storia di ciascuna di loro è inserita nel testo Quando la patria uccide, un testo possente, forte, un testo che consiglio veramente di leggere, perché io posso considerare questo testo lo Spoon River di un immaginario cimitero dove giacciono circa 150 morti assassinati, intere famiglie cancellate, dove appaiono anche alcuni esempi di antisemitismo presenti non solo nel periodo dagli anni 30 in poi, ma anche in precedenti epoche. Per esempio, voglio ricordare questo episodio: nel 1774 veniva raccontata la leggenda sull'omicidio rituale ai danni di Franz Thomas Löcker, detto anche il Franz Re di Monticolo. E guardate che questa vicenda veniva ricordata ancora qualche anno fa per chi ama andare in montagna sul sentiero Schaufele Wiessteig, il numero 4. Io ho trovato il capitello ed è stato tutto eliminato, per fortuna. Però è significativo che questa storia venne rinvangata nel 1893 dal pastore viennese Decker in un pamphlet Bambini sudtirolesi vittime del fanatismo sciassidico. Allora, chi erano questi signori, questi amici, queste persone riportate qui in questo libro? Erano commercianti, erano avvocati, erano impiegati, erano sarti, erano infermiere, commesse. Molti provenivano dalla ex Cecoslovacchia e dalla Germania, cioè in quegli ambienti dove l'essere ebrei era molto difficile anche per i pogrom che c'erano stati nel passato. E vennero in Sud Tirolo, convinti di trovare una seconda patria, convinti di trovare in Sud Tirolo attraverso la bellezza dei luoghi, il clima che c'era che c'era qui, Crima, che era stato sempre il luogo di destinazione delle vacanze, se è vero come è vero che qui c'era stato Freud, Zweig, Kafka e varie famiglie. In realtà la meta del Sud Tirolo rappresentò per tanti di loro la meta per Auschwitz, Birkenau e Mauthausen. Bene, il libro di Sabine Meyer e Joachim Inneroth ricostruisce tutte queste vicende. Allora io chiederei ai due nostri lettori, appunto alla Sabine e a Joachim, di illustrarci le parti salienti di questo testo e poi subito daremo la parola ai nostri testimoni. Prego Joachim. All'inizio non volevamo, anzi non sapevamo che esce un'opera così grande, non volevamo anzi neanche scrivere un libro così, volevamo se il piccolo libro va bene, il traverso libretto, e ci interessava all'inizio ma chi erano questi? Quanti ebrei erano a Meran tra 1890 e 1938? Quanti ebrei? Chi erano questi ebrei? Cosa facevano? E poi siamo andati in archivio, il nostro archivio della comunità, abbiamo cercato, abbiamo delle liste, dei fonti tirati fuori, abbiamo sì, proprio cercato dappertutto. Alla fine avevamo una lista dei nomi di oltre 4.000 nomi e poi cominciava a interessare ma chi erano questi, la storia dietro di queste persone, chi erano, cosa facevano, erano avvocati, erano, come dicevo prima, commercianti, però proprio la storia dietro di questa queste persone. Eravamo in Israele, eravamo a Yad Vashem, eravamo a Arlson, è una piccola città a Kassel, vicino a Kassel, grande archivio, eravamo a Vienna, un paio di volte, eravamo a Roma, abbiamo cercato degli archivi, cosa si trova lì, e poi ci interessa, prima o poi arrivavano delle storie delle alcune persone, e poi ci interessava anche delle persone che riuscito a scappare, riuscito da fuga, che sono scappati, che è riuscito a uscire di questo inferno. Poi, ma dove troviamo questa gente? Sì, ci aiutava internet, per esempio. Abbiamo usato il Google, abbiamo anche preso il Facebook, per esempio la Tamara ha trovato con Facebook, no? Racconta poi la storia, è molto interessante. E poi anche questo ci interessava anche di questo. Come si chiama? Gamai, quel commerciante di tappeti a Merano, orientali a Merano, Gamai, ma vivono ancora, sono ancora qui da qualche parte. E poi interessante anche questo Gamai, anzi il nonno di Azadè, che abbiamo ormai 94 anni, nel 1924. Era alloggiava all'hotel Emma, dove era Franz Kafka dentro. Franz Kafka scriveva nella lettera, ha incontrato una persona molto interessante, avevano un sefardo, spero che sanno tutto, un sefardo sono gli orientali, a Cinali sono dell'est Europa, una persona molto interessante. Quello ha scritto una lettera, nel diario su questa persona. E poi per puro caso abbiamo visto, ho trovato un'intervista su un giornale, non ricordo più dove, Anziadei Cevitati, ma abbiamo sentito questo nome Anziadei. E poi abbiamo cercato internet o nelle pagine bianche, mi sembra, Cepitani, sì, a Vittorio Veneto. Ah, lei è questa, la figlia di questo famoso cavaio? Sì. Poi ci siamo incontrati, siamo andati via a Vittorio Veneto, ci ha raccontato tutta la storia di sua vita. Mi è rimasto impresso anche questa cosa. Raccontava che lei era a Verano con... aveva 6-7 anni, 7-8 anni, andava a scuola elementare e ci ha fatto vedere una fotografia di tutti i scolari, compagni della classe. C'era un po' a destra, un biondino, uno biondo, bianco, questo non dimentico mai. Sai cosa mi ha detto sempre? Salute. Però è rimasta fino ad oggi questa cosa. E poi anche altre storie, i singer, i famosi singer, sapevamo che vivevano a Merano, però tutti sanno qualcosa dei singer, però nessuno sapeva precisamente qualcosa la storia dei singer. Eravamo in faccenda, anche il tuo caso che abbiamo trovato una lettera di Edward Singer, il padre, il zio di Hans, ha scritto dopo la guerra nel 1945-1946 una lettera a Hashem di cosa è successo, tutta la storia di cosa è successo a lui, a sua famiglia, la fuga in Valle d'Ultimo, poi la fuga verso la Svizzera dove si sono salvati. Poi anche il Langer, conosce il Langer, Alessandro Langer soprattutto. Poi sapevamo anche un fratello, un Peter, che vive a Bolzano, siamo andati lì, incontrato a Peter Langer, abbiamo parlato, ci ha raccontato tutta la storia, sulla storia di sua famiglia, di suo, come si chiama, suo padre, di suo zio, e Erwin Langer che era legato a Merano. E poi anche interessante questa storia, spesso venivano gente, amici del padre da Vienna a trovare a casa di Piteno, avevano una farmacia, la mamma, la cofla, Elisabeth, il padre era arrivato anche a medico, costruito l'ospedale di quell'epoca, prima della guerra costruito l'ospedale di Piteno. E poi nel 38, quando sono stati fatti questi viaggi razziali, è stato cacciato fuori da un giorno all'altro e poi sono scappati a Cesene prima, poi a Toscana e poi con dei come si chiama? Contrabbandieri sono stati portati in Svizzera. Sì, più o meno. Adesso lascio la parola. Grazie, io vorrei solo prima di tutto ricordare i testimoni a cui avrebbe piaciuto moltissimo essere con noi. Ecco, allora io volevo ricordare i miei nonni, i testimoni a cui avrebbe piaciuto moltissimo essere con noi, ma purtroppo non potevamo accedere, di cui abbiamo sentito appena, e ringrazio il pronipote di Friedrich Spansky, che era il presidente della fondazione Königsvater, che stava all'inizio della comunità ebraica di Merano, e era il sopravvissuto nascosto in Danimarca, oggi vive a Milano. Poi Alexander von Bach, il nipote di Maria Freudenfels, morta a Cernes nel 1941. Ben Schlesinger, Lula Polacco, Emanuele Naiga, Fritz Singer, Roberto Furca, anche di Milano, che avrebbe voluto venire ma purtroppo non poteva. Lui ci ha scritto un saluto e se permettete io adesso leggo un attimo alcune righe. Non potrei essere con voi, ma sento di volervi indirizzare qualche pensiero. C'è sempre bisogno di sapere, conoscere e ricordare con lo studio attraverso la memoria che l'animo umano ha una fragilità nascosta che può affacciarsi d'improvviso con un'inaudita veemenza. Del vostro lavoro voglio sottolineare la continua necessità ed attualità al di là del dato anagrafico e personale che mi vede tra i tanti volti evocati nella narrazione di Mordechai Heinrich. Sento più che mai l'urgenza di costruire ponti ed offrire speranza, spargere nelle coscienze l'idea che aprire sia infinitamente più sicuro che chiudere la mente, il cuore e il territorio. Vi saluto con tutto l'affetto possibile, rivolgendo l'invito a ciascuno dei presenti ad essere Hoffnungsträger, per sciogliere le resistenze ed abbattere gli ostacoli che altri ritengono necessari nel nostro travagliato presente di muri, barriere e allontanamenti. Io ringrazio anche all'indicazione dell'antisemitismo tirolese, che era veramente molto forte e che ha anche ispirato gli antisemiti di Vienna, con questo antisemitismo ispirato da Tirolo a Vienna. Gli antisemiti hanno vinto l'elezione nel 1897. Nonostante questo antisemitismo forte, c'era una famiglia che oggi è anche tra di noi, che ha vissuto a Bolzano, a Merano, ha vissuto a Merano dagli anni 70, e la famiglia Beam anche qua nella seconda fila. Sì. E siamo molto contenti che Ruth Beam è qua tra di noi, la figlia di Leopold Beam, la figlia dell'ultimo presidente della comunità ebraica prima della Shoah. Le testimonianze che sentiremo per breve, le altre testimonianze ci appartengono e ci riguardano direttamente, anche perché sono vicende importanti, soprattutto in un'epoca in cui prevale storicamente la mistificazione e la menzogna. Ecco, io comincerei con la famiglia Castelletti. Buonasera, sono... Buonasera. Ciao Franca. Allora, la famiglia Castelletti proviene da Mantova, giusto? Sì. Correggimi ovviamente, ed è una vicenda molto interessante, perché si intreccia anche, per chi è amante della musica, con la Linda Balla Ricci, e poi anche con la vicenda di un partigiano, appunto, il figlio della Linda Balla Ricci. Prego Franca. Buonasera, io ringrazio per l'invito, per me è un privilegio poter ricordare brevemente questa sera mio nonno Aldo Castelletti a Bolzano, nella città che lo vide residente negli anni 30, a poca distanza dal paese dove era sfollato e dove fu arrestato, a Fondo in Val di No, a poca distanza da Merano, la città dove fu imprigionato e dalla quale fu deportato per una fine che ancora adesso è ignota. Faccio solo un breve cenno. A dicembre del 2015, curiosando su internet, come spesso succede ormai a tutti, ho trovato un video di cui non avevo, relativo a un avvenimento di cui non avevo notizia, che era girato a Via Rosmini qui a Bolzano nel gennaio del 2015, ed era relativo alla posa di una delle 10 pietre d'inciampo che il comune di Bolzano, l'ANPI e la comunità ebraica di Merano hanno voluto collocare di fronte alle case di alcuni ebrei perseguitati e deportati. Potete immaginare la commozione che mi ha colpito, tanto più quanto era una sorpresa questo avvenimento, ed è stata anche l'occasione che mi ha consentito di conoscere gli attori di questa ricerca, Zavine e Joachim, ai quali sono stata felice di consegnare quel po' di memoria che ero riuscita a ricucire mettendo insieme racconti di famiglia, peraltro molto scarsi, fatti da mia mamma, figlia di Aldo Castelletti, qualche documento che ho avuto l'avventura di ritrovare a casa, le fotografie e qualche testimonianza che sono riuscita a raccogliere a Fondo, nel paese dove appunto erano sfollati e dove io continuo da 60 anni a recarmi con assiduità. Mio nonno dunque era una figura anomala nel panorama degli ebrei attuali, perché non era originario di qua, era di Mantova, e a Mantova apparteneva alla borghesia benestante, era commerciante, aveva un commercio di tessuti, aveva sposato Bianca Colonia, che se ebrea, nel matrimonio erano nati tre figli, l'ultima era mia mamma, Luciana Castelletti. Nel 28 mia nonna muore in circostanze drammatiche, si suicida, e mio nonno dopo resta vedovo con tre figli. Dopo due anni sposa in secondo matrimonio Linda Barla Ricci, una cantante, un soprano drammatico, abbastanza famoso credo all'epoca. E, il matrimonio si celebra a Budapest e poco dopo, probabilmente a Mantova la situazione era difficile per la famiglia e si trasferiscono a Bolzano, città che probabilmente mio nonno aveva conosciuto perché accompagnava, era solito accompagnare la moglie durante le sue tournée, e c'è traccia di diverse rappresentazioni di Linda Barla nel teatro di Bolzano. A Bolzano restano fino al 39, la famiglia abita in via Rosmini, mio nonno avvia un'attività di edizioni musicali, produzione e commercializzazione di dischi, di cui era socio e amministratore, mia mamma e mio zio frequentano la scuola, mia mamma in particolare frequenta Bolzano i 5 anni del ginnasio. D'estate vanno in vacanza alla Mendola, sono ben inseriti nella città, tutto procede serenamente, compatibilmente con i tempi. E nel 28 le leggi razziali interrompono la serenità della famiglia. Mio nonno viene espropriato, allontanato dalla società, non può più essere, non può più avere quel tipo di impegno, e mia mamma e mia zia non possono più andare a scuola. E questo per mia mamma come per mia zia, che non andava volentieri a scuola, non fu un problema particolarmente grave. Per mia mamma fu una tragedia, ed era una delle cose che mi raccontava ancora con sofferenza dopo tanti anni. Mi diceva che aveva continuato per molti giorni, per settimane, ad alzarsi regolarmente al mattino, andare davanti al liceo, aspettare il suono della campanella che faceva entrare le sue compagne e i suoi compagni, e lei tornava a casa. E l'altra cosa che non si seppe mai spiegare fu l'indifferenza delle compagne, nessuna delle quali, ad eccezione di una, dimostrò mai il minimo di comprensione, di amicizia. Erano ragazzine che fino al momento prima avevano studiato insieme, fatto passeggiate, scherzate come fanno tutte le ragazze del mondo. Per loro fu una cosa normale che non meritava neanche un cenno di solidarietà. L'unica compagna che le fu molto vicina era proprio l'originale di fondo, il paese di fondo ritorna spesso nella vicenda della famiglia. Nel 39 la famiglia non può più probabilmente mantenere e sostentarsi, e quindi mio nonno si trasferisce a Milano, ma a Milano la casa del 40 viene bombardata e, dovendo cercare un posto dove rifugiarsi, si rifugiano a fondo, e a fondo restano fino al 43, è l'unica famiglia sfollata a fondo. Intrattengono rapporti buonissimi con la popolazione, perché io per anni ho trovato ancora persone che si ricordavano del commendator Castelletti, delle ragazze, e in particolare del padre di Francesco, che era figlio del primo matrimonio di Linda, della cantante, la seconda moglie di mio nonno, che avrebbe poi preso parte alla resistenza e sarebbe poi morto nell'ottobre del 44 sull'Appennino bolognese in concomitanza della strage di Mantovano. Dunque nel 43, il 21 settembre del 43, a seguito di una delazione di una persona del paese che mia mamma sapeva, conosceva, ma non mi disse mai chi era, la famiglia viene arrestata ad opera di probabilmente formazioni territoriali viste che avevano la loro sede a Senale, almeno questo è quello che tutti i testimoni che io ho contattato mi hanno riferito. Addirittura un testimone che ho avuto ancora la fortuna di trovare, con il quale ho parlato, che aveva 13 anni all'epoca dell'arresto, i miei, si ricordava di alcune persone in divisa al comando di due civili. Arriva questo camion sotto casa di mio nonno e tra urla e spintoni arrestano il nonno e la moglie. Le ragazze non erano in casa in quel momento, si sono troppo se mi dilungo troppo fatemi dei segnali. Sì, ti faccio. Ed è questo l'unico ricordo che mia zia ha mai affidato, non ha mai ricordato nient'altro. Mia mamma qualcosa raccontava, mia zia nulla. L'unico ricordo, l'unica immagine che mi ha raccontato è questa, che quando erano da questa loro amica arrivò una signora del paese trafelata dicendo che cosa stava capitando, dicendo che i tedeschi avevano minacciato di fare una strage se non fossero riusciti a trovare tutti i componenti della famiglia, e allora loro si affrettavano verso casa e mentre passavano attraverso le vie del paese la gente si fermava al loro passaggio, ma nessuno li guardava in faccia, inchinavano gli occhi. Questa era l'unica cosa che mia zia mi ha raccontato. La famiglia viene arrestata ed è detenuta a Merano. Dopo 5 giorni Linda, che non era ebrea, viene rilasciata e del tutto fortunosamente mio nonno riuscì a far credere che anche le due ragazze fossero figlie del secondo matrimonio e quindi figlie di un matrimonio misto e non abbastanza ebrei per essere perseguitate. E quindi vengono rilasciate. Di mio nonno non c'è più alcuna notizia da allora, l'unica cosa che è rimasta è un biglietto olografo che io trovai dopo la morte di mia mamma, che nessuno mi aveva mai fatto vedere, scritto dal carcere di Merano domenica 26 settembre 43, in cui lui si rivolge alle figlie, felice che loro siano state liberate, e raccomanda loro di aspettarlo a casa, e fortunatamente loro non l'hanno fatto, perché sennò forse sarebbe finita peggio. Di pregare per lui, di attendere il suo ritorno, quando tornerò io tornerà la gioia, scrive, in realtà non torno mai. Mia mamma e mia zia a quel punto senza documenti da sole scappano, siamo nel settembre del 43, arrivano in Svizzera nel 4 marzo del 44. In quel periodo si rifugiano presso amici di famiglia in Val Camonica, poi con l'intervento del vescovo di Bergamo presso il convento delle figlie del Sacro Cuore ad Albino, a Brescia, poi vanno a Lecco, a Sondrio, infine a Tirano, seguendo le indicazioni che Francesco chissà come riuscì a impartire loro, contattano una contrabbandiera, passano le Alpi nella notte del 4 marzo. Mia mamma mi raccontava con un tocco persino di vanità che scappavano senza nulla se non la pelliccia che avevano addosso e le scarpette di camoscio che affondavano nella neve, usarono le slit, le pellicce a modo di slit, scivolarono lungo il pendio, arrivarono a bussare a una caserma di militari svizzeri, furono accolte, messe in quarantena in un campo, qualcuno garantì per loro e finalmente trovarono posto ciascuno in questi due famiglie, come ragazza del pari si direbbe oggi, mia mamma fu ad Arau presso la famiglia Pergini, il medico condotto del paese. Nel 47 tornano in Italia, non hanno più nulla della vita che avevano prima, non hanno più papà, la seconda moglie è tornata a casa, il fratello è morto, il patrimonio è completamente dissolto e ricominciano una nuova vita. Il primo figlio era morto in peso suicida prima di queste vicende nel febbraio del 43 Carlo Alberto, e quindi di tutta questa vicenda io ho l'impressione che mia madre chiude tutto in un cassetto per poter ricominciare, un cassetto della memoria per poter ricominciare a vivere. Se ho solo più un minuto, velocissimo, il valore di questo libro che è stato espresso da chi mi ha preceduto e secondo me, oltre a tutto quello che ovviamente condivido, quello di aver dato voce alle persone che rivivono queste pagine, che hanno avuto la possibilità di non essere solo più vittime ma testimoni. E questo credo sia il più alto tributo e che si sarebbe potuto fare alla loro memoria. Grazie. Il nonno della Franca, in quella lettera che ha citato, piccole mie adorate, Dio ha accolto la mia ardente preghiera e come doveva essere, voi siete così con Linda. Piccole mie, l'ora è grave, la nostra patria è dilaniata, e ogni giorno nuove ferite le vengono inferte. Occorre raccogliersi e avere fede. Penso che sia una delle ultime, sì, l'ultima lettera. La Oscar Kimbald proviene dalla Galizia, da Innsbruck, Zurigo, Bozzano. Sono qui e aprono appunto una sartoria nella nostra città. Sono qui presenti Tamara ed Elisir di Kimbald. È una vicenda molto, molto interessante, anche perché si mischia anche con rapporti esteri, con il Medio Oriente e con l'Egitto. Racconteranno loro questa vicenda. Prego, Elisir. Purtroppo il tempo è tiranno, vi prego di, ecco, se no alle 8 scatta l'allarme, è vero che abbiamo il presidente. Una valanga di emozioni per essere qua, benvenuti a tutti, e ve lo dico in ebraico, Bruchim Abayim, benedetti coloro che sono venuti, e sperando che questo sia proprio una benedizione, che tutti quelli che ci sono, che vanno, che vengono, che trasmettono, che aprono, che chiudono, ho sentito qua parecchie parole, e le parole sono molto importanti, che poi appunto fanno fluire nella mente moltissimi pensieri. Allora, due minuti veramente soltanto, perché penso che quando una persona testimonia sia importante trasmettere appunto agli altri chi è la persona che sta testimoniando. Io sono figlia di Leonardo Ariel Kimbald e nipote del sarto Oscar Kimbald, arrivato qui dalla Polonia, e mio padre è nato a Bolzano nel 1921. Talmente mio padre, di cui ho qui una breve lettera che erano le sue memorie, soprattutto della fuga, perché a differenza della signora, che non conoscevo, per tutto adesso piacere di conoscere, la nostra, la patria uccide, il titolo del libro, ma in questo caso la patria ha salvato, perché la fortuna della famiglia di mio padre, in un certo senso, chiamiamola fortuna in un momento così tragico, buttati fuori, scusate il termine brutale, buttati fuori, e mio padre anche perse la possibilità di andare a scuola, frequentava il quarto liceo, la quarta scuola, la quarta classe della scuola del liceo, e sono andati prima accolti, mandati in un campo di prigionia in Italia, a Ferramonti. Poi chi vorrà leggere il libro lo leggerà, e la Sabina mi ha chiesto della documentazione, anche loro l'hanno trovata, scappati da altre parti. E alla fine, poiché loro per fortuna parlavano, erano di madrelingua tedesca, mio padre ha avvisato che non era il caso di presentarsi al comando della polizia tedesca, e tutti coloro che erano in questo rifugio nella provincia di Lucca sono quindi finiti nelle camere gas. Mio padre è scappato insieme alla sua famiglia, sono andati peregrinando nelle montagne della Garfagnana, e questo racconto appunto viene descritto anche qualcosa nel libro, e alla fine si è aggregato, mi fa piacere che ci siano qua rappresentanti dell'ANPI, si è aggregato ai partigiani presenti nella zona, e per questo gli è stata riconosciuta anche durante la vita, quando poi era già padre nostro e un ottimo lavoratore, una mente molto particolare, la mente di mio padre, e ha avuto una medaglia al valore della resistenza. E quindi diciamo che la mia famiglia in pratica si è salvata tutta, mio padre con suo fratello, i nonni, allora la parte diciamo dei miei nonni con il fratello minore sono emigrati poi negli anni 50, avendo perso tutto, come diceva la signora qui, non è mai stato restituito nulla, né, non parlo della parte economica ma anche proprio della dignità, e quindi hanno pensato bene di trasferirsi nello Stato di Israele, che allora nasceva, che non era certo un posto negli anni 50 ideale per poter ricominciare una vita. Infatti mio nonno è rimasto sempre totalmente incapace di ricominciare, perché non avendo la lingua, non avendo già un'età abbastanza avanzata, però il figlio suo, che è il fratello di padre, mio papà, ha messo al mondo un unico figlio, perché non arrivavano gli altri, mio cugino, il mio unico cugino, il nostro unico cugino, che è una persona eclettica, ma nello stesso tempo assolutamente e terribilmente attaccato alla tradizione ebraica, nel senso ortodosso della parola, e quindi ha messo al mondo 10 figli, di cui 5 maschi e 5 femmine, i quali maschi, essendo mio cugino 15 anni più giovane di me, già nonno, io non li ho più, ancora non li posso contare quanti sono i suoi nipoti, e quindi i Kinwald stanno andando alla grande. Essersi laureati anche il dottor Segolaro di lui a Milano, è emigrato anche lui in Inghilterra e anche lui ha avuto la sua ottima parte di ricostruzione della famiglia Kimball, perché ha 2 maschi e già questi pure faranno, uno già ce n'è, un mattino, e il piccolo ancora si sposerà in Canada il prossimo anno. Insomma, queste famiglie ebraiche che poi sono famiglie globalmente presenti nel mondo. E io sono un'ex insegnante, imprenditrice di me stessa, anch'io madre di 3 figlie, nonna già di 7 nipoti, non sono più Kimball, ma sto trasmettendo nel massimo potenziale l'imprinting, il Yiddishkeit che mi ha dato mio padre. E infatti oggi siamo andati a fare una splendida vacanza, gita a Costa Lovara, perché mio padre, pur essendo stato cacciato da Bolzano quando eravamo piccoli, dove si deve andare in vacanza se non nel Renon, eccetera eccetera, quindi questa cosa, questo aspetto dell'attaccamento alla bellezza del territorio, ne sentivo parlare prima, c'è stato. Adesso vorrei essere un attimo più seria e voglio dire alcune cose ancora, spero di non togliere più tempo a nessuno. Ho visto che non l'avevo visto prima il libro, la prefazione del libro è stata data, è stata scritta una parte dal rabbino Riccardo Disegni, che fa parte dell'altra parte della famiglia, dalla parte della mia mamma. Mia mamma era una Disegni, è una cugina di questo rabbino. E anche qui c'è un incrocio incredibile, perché il padre del dottor Rav Disegni è stato anche lui partigiano e raccontava recentemente, è venuto in Israele, raccontava recentemente di aver, lui ha fatto un pellegrinaggio dove il padre è stato medico partigiano, e quando è finita la guerra raccontava che il padre ha incontrato appunto la parte della famiglia della mia mamma, che anche lì abbiamo un destino molto difficile da parte della nostra mamma, non c'entra con l'Alto Adige, ma c'entra col fatto, lì invece si trattava di una famiglia assolutamente italiana. Mio nonno da parte materna ha combattuto la guerra del 15-18, mio zio, fratello di mia mamma, ha combattuto la campagna d'Africa e ha avuto una croce al valore per questo da Mussolini, e si è ritrovato poi nel 44 nel micidio delle forze albertine, e quindi è perito in quel frangente, essendo anche lui stato poi in qualche modo un gregario partigiano. E quindi queste cose io vorrei dare da semplice donna, da semplice madre italiana e anche israeliana adesso, perché è molto bello avere una dicotomia di questo genere, vorrei dare un significato alla nostra presenza qui. Domani andremo a parlare con gli studenti, io ho insegnato per tantissimi anni nelle scuole a Venezia, a Roma, sono laureato in biologia, ho insegnato scienze e matematica, e non lo so se riusciamo a dare ai nostri giovani una possibilità in più affinché queste tragedie non si ripetano. E vorrei spendere solo un'ultima brevissima parola su Israele, visto che vengo da là. In Israele la situazione è difficile. In Israele c'è una dicotomia territoriale spaventosa, ma per favore, non venite a parlare di apartheid, perché i palestinesi, se vogliono, hanno i diritti identici agli ebrei. I palestinesi vengono curati negli ospedali israeliani nello stesso modo e con la stessa energia con cui Israele è all'avanguardia in molti campi della medicina e di altre tecniche, ovviamente. Non avrebbero, hanno diritto e hanno la possibilità di avere una paritaria, un trattamento paritario. Mio marito, che è qui presente, è un musicista e ormai in pensione, va a volte a suonare per i bambini dializzati all'interno degli ospedali israeliani. Su 6-8 postazioni di questi bambini, forse se ci sono 6 letti, 5 sono occupati da bambini palestinesi. Ci vuole molta buona volontà. Ci vuole volontà appunto per non chiudere, aprire, pur, e questo tengo a sottolinearlo con molta forza, trasmettendo la propria identità fortemente. Io sono una donna ebrea osservante, anche per questo ho un cappello sulla testa, non perché sto facendo la chemioterapia o per moda, ma perché nelle donne ebree sarebbe, diciamo, rispettoso andare col capo coperto quando si è in pubblico, le donne sposate ovviamente. Però nello stesso tempo penso che ci vuole un grande rispetto. Quindi portare fortemente la propria identità non vuol dire non rispettare l'altro. Io ho insegnato tanti anni nella scuola italiana, di nuovo devo dire grazie alla scuola italiana, perché ho sempre voluto il mio sabato e mi è sempre stato dato, anche se i colleghi dicevano: ma come il sabato, noi andiamo a fare la settimana, se ci sei tu mi blocchi una sezione col sabato, tutti gli altri non lo possono avere. Tutte le preside non mi hanno fatto andare agli studi perché noi di sabato non possiamo firmare. Quindi credo che ci sono i segni, in Italia soprattutto ci sono, per avere una possibilità di dialogo e di apertura nel rispetto reciproco di tutte le diversità. Quindi questo è il monito, questo è anche un bellissimo posto, perché appunto siete tutti bilingui. Io non ho capito quello che mi dispiace molto, perché mio padre, ecco, il tedesco non ce l'ha passato, però voi che siete bilingui sicuramente avete anche una possibilità in più per dare la possibilità a questo rispetto, a questa comprensione e a questa vicinanza di popoli di andare veramente a buon fine. Che vi ringrazio. Sì. La famiglia di Wolfgang Gromi proveniva da un luogo che si trova oggi in Ucraina. Il Wolfgang Gromi fu un famoso batteriologo. Infatti scoprì una cura profilattica contro l'actinomicosi. Bene, io direi subito, tutto Massimo se vuole raccontare la sua storia, grazie. Grazie. Buonasera a tutti. Io parlo a braccio perché devo comunicare dei brani della storia, del vissuto della mia famiglia, ma in realtà sono frammenti delle mie emozioni, perché tante volte queste cose coincidono. La mia prima emozione è quella, quando vado in Alto Adige, adesso in Tirolina, vado a Bolzano, vado a Merano, invece in realtà un qualcosa nel mio cuore dice: no, torni a Merano, torni a Bolzano. Perché da bambino sentivo parlare sempre con molto interesse i miei nonni tra di loro, di quelle che sono state. Mio nonno è nato a Merano, mia nonna a Praga, di quella che è stata la loro vita a Merano, di quella che è stata la loro vita da queste parti, una vita in parte sicuramente estremamente gratificante. Mio bisnonno Wolfgang venne ad aprire un ambulatorio, un laboratorio di batteriologia clinica, di prima laurea era un chimico, di seconda era un batteriologo, studiò a Vienna e poi studiò a Berlino, come spesso capitava a chi volle essere scienziato mitteleuropeo con grande caratura al 100%. Quindi in quei tempi era abbastanza automatico scegliere alcune dimore, una era Bad Reichenhall in Baviera, l'altra era qui, poi la famiglia tutta si riunì qui a Merano. E per i ricordi, per i frammenti che mio padre, che purtroppo è mancato da non molti anni, mi diede relativi a Merano, a questa zona che noi abbiamo comunque sempre continuato a frequentare, questi ricordi sono parzialmente solari, ma sono stati solari, diciamo, fino a una certa epoca, l'epoca della sua prima infanzia, nella quale giocava in Piazza Duomo a Merano, nella quale aveva tanti amici, nella quale vedeva il parroco del Duomo, ed era convinto che fosse un rabbino perché aveva una barba lunga, per cui in una famiglia aperta culturalmente dal punto di vista mentale, non è che i miei nonni mi facessero tante differenze dicendo parla con questo, non parlare con quell'altro, sì, è parroco, è un'ottima persona, confrontati così come ti confronti con il rabbino, così come ti confronti con chiunque altro di, diciamo, di buona volontà. Conseguentemente il modo della famiglia Gronich, Gronich come dicono Verona, di confrontarsi con le proprie radici è un modo soprattutto culturale più che non religioso. La religione a casa nostra è sempre stata vissuta in modo molto intimo e molto personale, ma culturalmente, insomma, questa cultura è una cultura forte, è una cultura che è stata tramandata ed è una cultura che sopravvive nonostante determinati avvenimenti. Nel 1938 mio padre viene buttato fuori, uso questo termine perché non ci sono altri termini, dalla prima elementare, non era più frequentabile. I luoghi che frequentava erano, non erano più frequentabili. La pasticceria dove andava a mangiare le pastine non aveva più pastine per lui. Gli amici non esistevano più. Dalla sera alla mattina la mia famiglia si privò di tutto quello che aveva, avvisata di dover sfollare in circa 48 ore. Ma 48 ore sono poche. Ok, per spiegare a un bambino perché se ne deve andare, oppure comunque per avere un'idea razionale della situazione. Quindi la casa viene abbandonata, vengono abbandonati dei mobili di pregio, delle statue, dei dipinti, non tornerà più nulla di queste cose. Se ne vanno a Trento. A Trento quel poco che è stato portato via viene sostanzialmente svenduto, regalato a arredare parte della dimora del principe vescovo, e anche lì molto velocemente la famiglia che ha legami internazionali, perché mia zia, sorella di mio nonno era laureato in chimica, faceva il chimico, sua sorella si era sposata con il barone Tedeschi di Varsavia, perdono i contatti, ne perdono meno con l'altra sorella di mio nonno, sposata, una professoressa universitaria sposata col professor Fritz Lehmann di Berlino, dove in qualche modo riescono ancora a mantenere qualche contatto, professore di letteratura. Lui era, credo fosse protestante, non era soggetto alle regole restrittive. Insomma, la famiglia tende a disperdersi. Per rimanere nell'ambito di quello che riguarda più mio nonno e mio padre, insomma, arrivano cambolescamente a Verona il divieto di lavorare, perché si dà anche il divieto di lavorare a queste persone. Non si può lavorare, non si può frequentare la scuola. Mio padre frequenta una scuola, diciamo, un po' spontanea, formata da appartenenti più o meno alla comunità ebraica veronese. Mio nonno a Verona nascostamente continua la sua professione di chimico, ufficialmente fa, diciamo, lo scaccino un po' sacrestano che c'è nelle sinagoghe, e pur non volendo in nessun modo essere pagato per questa attività, ma serviva solo perché la somma di tutte queste cose fece sì anche che divennero apolidi. Perché prima c'era la cittadinanza austriaca, poi la cittadinanza italiana era previsto fosse data, ma solo in cambio del cambio del cognome e della posizione della tessera del fascio. Mio nonno rispose no a entrambe le situazioni, evidentemente, per cui si complicò fortemente la vita, ma fece benissimo, perché salvò la dignità. Cosa successe alla mia famiglia? Brevemente, vista l'ora, mio nonno, con i pochi soldi che gli erano rimasti, entrando anche in contatto con la resistenza e con i cosiddetti passatori, riuscì con mio padre e mia nonna ad andare verso la Lombardia, prima di Senzano, poi, e con i pochi soldi comprò una pistola con tre proiettili, sarebbe servita nel caso in cui i nazisti li avessero intercettati, la prima per mio padre e l'altra per loro. E questa situazione fece sì che comunque riuscirono ad andare a Valtellina, strada facendo, però in una locanda qualcuno fece una dilazione, probabilmente prese qualche centinaio di lire e tagliarono la gola del paragrafo, fortunatamente non in modo mortale, altrimenti non sarebbe qui. Riuscirono ad arrivare in Svizzera, fortunatamente non furono accompagnati alla frontiera, furono accolti anche se separati, un'accoglienza molto, comunque, molto dura. Mia prozia, sorella di mio nonno, che faceva l'insegnante e l'istitutrice di Senzano, anche lei meranese, lei non si sposò. Si chiamava Dorotea, detta Dolly, ricordata nella stele al cimitero ebraico di Merano, che lei fu venduta e conseguentemente qualcuno guadagnò un po' di soldi, non sappiamo più nulla, fu deportata, consegnata all'autorità nazista. E questa è sostanzialmente la storia. Mia prozia Frizzi, la professoressa, siccome era sposata con un professore tedesco, la bionda con gli occhi azzurri, quindi in Germania non ritennero che fosse particolarmente ebrea come caratteristiche fisiche, quindi fu solo sterilizzata, e questo è il motivo per il quale erano molti parenti con lui alla fine, insomma, che derivano a questa situazione. Però questo per comunicare la situazione che una famiglia lavoratissima di professionisti, di persone che lavoravano, di persone che parlavano il tedesco, di persone che avevano un'integrazione forte con quello che all'epoca era il Kaiser, l'idea di questo impero multinazionale, comunque una grande simpatia per gli italiani, perché mio nonno, quando nel 18 arrivò l'esercito italiano, lui parlava il latino, aveva studiato al liceo, insomma, comunicava più in latino che in italiano, l'italiano l'ha imparato un po' dopo, onestamente, e comunicò con gli ufficiali italiani dove portare quello che mio padre venisse marmite di pasta asciutta per alimentare la popolazione civile, così, insomma, i buoni rapporti, ecco, si tenevano. difficile, credetemi, parlare di queste cose, però meritorie queste iniziative, perché i testimoni in prima persona purtroppo per motivi anagrafici quasi tutti non ci sono più. Mio padre faceva fatica a parlare di queste cose, evidentemente, molto ha lasciato scritto. Quando torno qua, io torno, come dicevo, vado in Alto Adige, ma torno anche un po' a casa. Grazie. Abbiamo a disposizione esattamente 9 minuti, altrimenti scatta un allarme e dobbiamo fuggire tutti, non abbiamo bisogno di questi segnali. Allora c'era però il signore Indice che voleva dire qualcosa, voleva aggiungere qualcosa. Beh, non vorrei far partire l'allarme, ma sì, vorrei dire qualcosa. Prego. Prima di tutto vorrei ringraziare l'AMPI per averci dato l'opportunità di partecipare a questo evento molto importante, ma anche perché, essendo qui, siamo riusciti, mia sorella e io, a evocare memorie di giovinezza. Come ha detto mia sorella, andavamo in vacanza sull'altopiano del Brennone, e questo dimostra quanto, nonostante tutto quello che sia successo, come nostro padre mantenne un attaccamento molto caldo con questa bellissima regione. Sì. Vorrei ampliare un pochino quello che è stato discusso fino adesso. Non credo che c'è bisogno di aggiungere a quello che è stato detto riguardo le testimonianze, ma ora che abbiamo sentito queste testimonianze, non si può sentire? No, non si posso sentire. Parlare più forte. Sono soldi. Ora che avete sentito queste testimonianze, vogliamo pensare un momento a cosa possiamo fare con queste testimonianze. Abbiamo sentito uno dei relatori questa sera parlare di Primo Levi. Primo Levi era uno scrittore chimico torinese, sopravvisse Auschwitz e spese il resto della sua vita, corta ma purtroppo, per cercare di far capire al resto del mondo cosa un uomo può fare a un altro uomo. I suoi libri sono molto famosi, Se questo è un uomo, La tregua, I sommersi e i salvati e molti altri. Purtroppo nel 1987 Primo Levi scomparve in tragiche circostanze e ci sono varie opinioni riguardo a cosa successe. Forse era un incidente e è caduto dalle scale nella casa di sua madre. Forse si è suicidato. Elie Wiesel, un altro scampato, questa volta di Buchenwald, famoso scrittore e premio Nobel, ha detto in una maniera molto famosa: Primo Levi è morto ad Auschwitz 40 anni dopo. Se ha commesso suicidio, perché si è suicidato Primo Levi? Perché ha capito in maniera profetica che, nonostante tutto quello che lui ha scritto e ha detto delle tragedie che lui è stato testimone, ancora nel mondo c'era intolleranza, antisemitismo, e ha previsto che l'antisemitismo sarebbe continuato. Non vogliamo tradire Primo Levi. Cosa possiamo fare per non tradire Primo Levi? Voi siete qua stasera, avete sentito le testimonianze. Ci sono tante persone fuori di questa aula che cercano di negare quello che è successo durante l'ultima guerra. E l'antisemitismo è vivo, oggigiorno, qualche volta mascherato come antisionismo, ma è antisemitismo. E l'unica maniera di combatterlo è che voi facciate una promessa, non una promessa a me. Tra due giorni io sarò con la regina Elisabetta, quindi voi non mi vedrete più per il momento, ma è una promessa che voglio che fate a voi stessi. E cos'è questa promessa? È che non bisogna dimenticare. Dimenticare è come negare. Se ci sono Holocaust deniers, coloro che negano l'olocausto, non vogliamo dar man forte a coloro che negano l'olocausto. 6 milioni di ebrei sono morti nell'olocausto, 1 milione dei 6 erano bambini. Non dimenticare. Parlatene nei vostri posti di lavoro, parlatene nelle vostre scuole, parlatene con i vostri amici. Non dimenticare. Grazie. Soprattutto Federico Steinhaus, Rosanna Pruccoli e gli storici Stoyer Cinzavillani hanno contribuito a ricostruire la storia della comunità ebraica di Merano dal XIII secolo per arrivare fino ai giorni nostri. Ecco, io chiedo al dottor Steinhaus di illustrare brevemente, se possibile, e di dare un contributo alla nostra bellissima serata. Certo. Molto brevemente, di conseguenza, eliminando tutto quello che vorrei dire, o quasi tutto. Mi dispiace che la persona che più degli altri voglio ringraziare sia andata via, ma erano 60 anni che aspettavo un presidente della provincia dire quello di stasera. E l'altro ringraziamento va a Sabina Giovi, perché senza togliere nulla a quello che abbiamo sentito adesso sul dovere di ricordare, di tramandare, di parlare ai giovani della Shoah, senza togliere nulla a questo ricordo e a questo dovere che abbiamo, Sabina e Giovi ci hanno fatto vedere e hanno fatto parlare ebrei vivi. Non abbiamo parlato soltanto degli ebrei morti. Sugli ebrei morti tutti sono pronti, o quasi tutti, sono pronti a versare qualche lacrima. Il problema sono gli ebrei vivi. E l'abbiamo sentito da tutti oggi. L'antisemitismo esiste nella forma antica dell'antisemitismo di matrice religiosa, anche se si è trasferito soprattutto dalla religione cristiana alla religione musulmana. Esiste l'antisemitismo come antisionismo, esiste l'antisemitismo come odio per Israele, desiderio di distruggere lo Stato di Israele, che non avrebbe diritto di esistere secondo queste persone. Per essere breve e non togliere nulla all'importanza di questo pomeriggio, che è stato così partecipato, così sentito, commovente per me, perché il privilegio della mia età è che ricordo personalmente molte delle persone che sono state nominate questa sera, dalla famiglia Berman al signor Gronich, che quando veniva a Merano passava sempre da noi a salutare i miei genitori, dalla famiglia Kimball, che mi fa piacere sapere che sia sopravvissuta tutta, perché io sono stato esecutore testamentario di un membro della famiglia Kimball da Merano, Maya Kimball, e di conseguenza tutte queste persone, i Gabai che ricordo, tutte queste persone fanno parte anche dei miei ricordi e della mia vita giovanile. E questo è il motivo per cui una riunione come questa, come quella che abbiamo avuto il piacere di condividere col sindaco di Merano, all'Urania di Merano, sono particolarmente commoventi per me. Chiudo soltanto con una considerazione brevissima. Ho trovato casualmente tra le mie carte la fotografia di una ventina di ragazzi ebrei, giovani, a occhio direi tra i 15 e i 20 anni, allegri, spensierati, una fotografia fatta nel 1927 davanti al Kursaal di Merano, e mi sono chiesto quanti di loro sono stati deportati. Grazie. Con una esperienza personale, avrete capito che sono pugliese, sono nato nel sud d'Italia e vi racconterò una indiretta testimonianza. A San Nicandro Garganico, un paese in provincia di Foggia, negli anni 20-30 un certo Donato Manduzio decide di studiare la Bibbia e si scopre ebreo. Ora sapete che l'ebraismo non ha questa azione di proselitismo, però questo signore si mette a studiare la Bibbia, diventa ebreo, cioè crede di essere diventato ebreo, crea un gruppo di 40 adepti e chiede al rabbinato il riconoscimento dell'essere ebreo. Chiaramente per gli anni in cui si vive il rabbinato appunto prende un po', va un po' con i piedi per terra. Però facciamo un salto: nel settembre del 43 la Puglia viene liberata dagli americani e la famosa brigata ebraica si vede in quel di San Nicandro Garganico vedere questi personaggi, queste persone che li accolgono a braccia aperte con la stella di Davide, e quindi per loro è una meraviglia vedere questo gruppo. 1946 chiedono di diventare ebrei e gli fanno gli esami, sappiamo che sono esami di teologia, insomma di studio dell'ebraismo molto, molto profondo. Bene, per chiudere la serata anche con la classica speranza, questo gruppo va in Eretz Israel, Donato Manduzio resta a San Nicandro Garganico, ancora oggi le vedove, qualche vede di Donato Manduzio a Scolanova, nella vicina città di Trani, hanno ripropongono questi riti dello Shabbat tipici dell'ebraismo. Io vi ringrazio per la vostra cortese attenzione, purtroppo non ci si può esserci dibattito e altre riflessioni, spero che la serata sia servita quantomeno a riprendere. Grazie.